conoscevano le esperienze storiche di un popolo, anche quelle complicate. Provate per esempio, piccolo esempio, provate a parlare di inflazione a un italiano. Per un italiano l'inflazione è un fenomeno abbastanza abituale, la sua reazione sarà di limitato timore se gli dite che è forse l'anno prossimo di accendere l'inflazione possiamo arrivare addirittura a un'inflazione a due cifre come non avevamo da 30 anni o da 25. Un italiano dirà sì, è un po' preoccupato da una cosa. Provate a dirlo a un tedesco, vedete che vi risponde. Che magari l'inflazione aumenterà dell'1%, la reazione sarà probabilmente di panico. Perché nella memoria collettiva dei tedeschi c'è il ricordo estremamente traumatico della Repubblica di Weimar e della distruzione della moneta, di quello che significò la rovina di un'intera società attraverso la distruzione di un vettore di informazioni come il denaro. Per gli italiani invece, gli italiani hanno sempre convissuto, per realtà non hanno mai avuto un'inflazione traumatica, violenta come quella di Weimar, nella quale i salari quadruplicavano ogni mese, ma i prezzi decuplicavano ogni mese. Quindi la rapida distruzione del potere d'acquisto, che diventava tangibile, metteva in discussione la sopravvivenza fisica, l'alimentazione. Gli italiani non hanno mai conosciuto questo, ma hanno conosciuto un'inflazione molto più costante, molto più distribuita nel tempo, meno traumatica ma più insistita, quindi ci hanno convissuto. Tutto questo è entrato nella memoria, è entrato nel bagaglio che identifica un popolo e le sue ansie, le sue paure, le sue aspettative. Quindi vedete come l'identità si carica tanto di uno scambio simbolico e di informazioni sul presente, per cui voi vi sentite in questo momento studenti per la vostra comune situazione di chi ascolta una lezione, chi è iscritto all'università, e studenti del 2010 che hanno questo tipo di offerta formativa. Però in voi c'è anche una memoria pregressa delle esperienze di questo paese, della cultura, che sono filtrate per esempio attraverso il linguaggio. E talvolta si tratta anche di cose minime. Pensate solo a una cosa: quando uno sterrutisce, adesso magari va declinando questa abitudine, ma l'abitudine è che una persona che sterrutisce si dice salve o salute, adesso magari un po' meno, ma insomma in altri paesi sì, era un'abitudine abbastanza diffusa fino a 20 anni fa. Sapete perché? L'origine è nella peste del 1300, del 14 secolo, quella che decimò la popolazione europea, e che era una peste polmonare che si annunciava esattamente attraverso uno sterruto. Per cui quel salve, quel salute, era in qualche modo una preghiera, uno scongiuro, era la speranza che la persona che aveva sterrutito non fosse stata colpita dalla peste, perché diversamente il contagio avrebbe probabilmente, la peste polmonare si diffonde per effetto aerosol, avrebbe colpito probabilmente anche i presenti. Beh, pensate, quella lontana origine si è perso il significato da molto tempo, e però è un'abitudine che è sopravvissuta per oltre 6 secoli. Ecco, vedete come il più grande archivio della memoria di un paese, l'autobiografia involontaria di una nazione, stia nel suo vocabolario, stia nel suo lessico. Qualcosa che si forma molto lentamente nel tempo, che stabilisce delle convenzioni di cui spesso si perde il significato originario, ma che persistono e creano identità. Sì, in questo senso il riferimento a Rodin è un riferimento azzeccato, e attraverso questi meccanismi che Dio diventa noi e si costituisce in soggetto collettivo. Un processo storicamente determinato, spiegabile in termini di origini storiche e quindi che fa parte del nostro studio, fa parte di quello che vuole fare. Quando parliamo di uso pubblico della storia, la storia è su uso pubblico, è su uso collettivo. Quando parliamo di uso pubblico della storia parliamo esattamente di questo, parliamo della proposta di identificazione che ciascun soggetto politico fa sulla base dell'analisi del passato. E ci sarà, ad esempio, chi propone l'identità padana contrapposta all'identità italiana, lo fa come? Da un lato attraverso un processo mitologico, recuperando un passato storicamente inesistente di una nazione celtica che si sarebbe insediata nella valle del Po, per la verità i Celti sarebbero correttamente i Friulani che sono loro, e su questo costruisce un immaginario simbolico, la folla del fiume Po, eccetera, il dio Po, eccetera. Ma nello stesso tempo fa l'operazione storiografica, sottopone a critica la storia del Risorgimento, presentato come un evento nefasto, negativo. L'assorbimento dell'identità nazionale di un popolo, il popolo padano, all'interno di un'unità geopolitica astratta come lo Stato unitario italiano, voluta da gruppi ristretti in nome dei propri interessi economici più o meno inconfessabili. E per esempio in questo caso assisterete paradossalmente alla confluenza di tre diversi tipi di revisionismo storico. Il revisionismo storico più prossimo alla Lega, per intenderci, che è quello che si è espresso nel famoso fumetto finanziato dalla Regione Lombardia. Il revisionismo storico cattolico, di autori per esempio come Rattigliani, che presentano il Risorgimento come il progetto di gruppi massonici che volevano espropriare la Chiesa cattolica e quindi distruggere quella sorta di anticipazione del welfare per impossessarsi dei beni dell'asse ecclesiastico, e il revisionismo, naturalmente la conseguenza di tutto questo è la positività per esempio del regime preunitario dello Stato temporale della Chiesa. E il revisionismo storico di marca neoborbonica che presenta l'unità d'Italia come la violenta annessione, la colonizzazione del sud da parte del nord dei piemontesi che con la violenza hanno occupato un regno indipendente e attraverso la repressione selvaggia del brigantaggio hanno costretto in ceppi coloniali il popolo del sud. Guardate come ci sia, se volete da un punto di vista logico, un profondo contrasto fra la versione del primo regionismo e quella del secondo. Nel primo caso, a essere colonizzati sarebbero stati i popoli del nord, qui si capisce bene perché le truppe piemontesi avrebbero fatto questo teatro, in nome di elite molto ristrette che avevano dei propri interessi per inventarsi lo Stato unitario italiano. Nel secondo caso invece i colonizzati sono quelli del sud, che sono stati violentemente conquistati da quelli del nord. Ma l'importante non è questo, l'importante è l'operazione politica che si fa per dissolvere l'unità italiana. In questo senso guardate che il 150esimo della Unità d'Italia è una cartina di tornasole del logoramento dell'identità italiana e dell'affermazione di progetti o di natura cosmopolita oppure di progetti di natura localistica, come per esempio la nazione padana. Quindi, come vedete, in entrambi i casi c'è un'operazione storiografica che si connette poi ad aspetti logici, simbolici, di linguaggio, eccetera, e che costituiscono un progetto di popolo. Ridanno confini, ridisegnano i confini di un soggetto collettivo. In questo caso il soggetto del popolo, il popolo padano contrapposto al popolo italiano. il popolo meridionale contrapposto al popolo italiano, divergenti fra loro apparentemente sull'interpretazione del passato, convergenti nel comune disegno di separazione. Come vedete, anche questa è un'operazione storiografica. Bene, vengo invece alla seconda domanda relativa al ruolo dell'individualità storica e alla libertà. Ma per arrivarci devo riprendere un discorso dove avevamo interrotto ieri. Il problema, dicevo, della spiegazione storica, la storia è ricerca della spiegazione, ricerca di nessi logici che hanno causato una certa emozione che ha prodotto determinati effetti, determinati stati di fatto. In un primo momento, quando scusatemi, ma oggi ho un po' di problemi respiratori legati al raffreddore, per cui ho qualche difficoltà a parlare, scusate. Quando inizia a formarsi la storia contemporanea, guardate, la storia è una disciplina antichissima, perché in realtà già da Erodoto e soprattutto da Tucidide abbiamo i primi modelli di storiografia occidentale, cioè di riconoscimento cosciente dell'identità attraverso la storia. Però è anche vero che la storia ha avuto varie fasi, poi sviluppata l'idea di storia sacra. La storia intesa nel senso moderno, dopo un lungo periodo, un lungo travaglio di formazione, va dagli analisti medievali fino alla fine del Seicento, inizia ad affermarsi come disciplina autonoma e laica, compiutamente laica, con il Settecento. In Italia con Ludovico Antonio Muratori, in Francia per esempio con Mably, che in realtà non è esattamente uno storico, noi oggi diremmo che è un politologo, azzarderemo questa definizione ad interim di Mably, ma che lo fa essenzialmente attraverso la ricerca. In un primo momento si affermano modelli esplicativi monocausali. Si cerca la causa singola di un determinato fenomeno storico. Adesso lasciamo a parte, ci vedremo un attimo, la differenza tra episodio, avvenimento, fenomeno, tendenza, struttura. Ne parleremo. Subito dopo si affermerà un modello, diciamo, a causa dominante, cioè si ammette che la causa non è mai una, ce ne sono diverse, che c'è un sovrapposto, però ce n'è una dominante rispetto alla quale le altre confluiscono e rafforzano quel tipo di tendenza. In tempi ancora più recenti, nei primi del Novecento, inizia ad affermarsi l'idea di modelli esplicativi sui causali, cioè dove c'è il concorso di più cause, però per così dire viste parallelamente una all'altra. Con la grosso modo metà del Novecento inizia una grande rivoluzione scientifica, per la verità in Italia poco osservata dagli umanisti, ma in realtà che è andata molto oltre gli ambiti disciplinari. Mi riferisco alle grandi tappe che hanno cambiato il pensiero scientifico del Novecento: la teoria della relatività di Einstein, la teoria del principio di determinazione di Heisenberg, il teorema di incompletezza di Gödel, quindi la teoria della freccia del tempo di Prigogine, che sono culminate nella affermazione, prima della teoria del caos o delle catastrofi, della complessità. Queste teorie sono nate in ambito delle cosiddette scienze naturali, della fisica prevalentemente, ma in parte anche della biologia. Però hanno avuto degli effetti che hanno cambiato il modo di pensare molto al di là degli ambiti disciplinari in cui si sono affermate. Oggi non è possibile fare storiografia se non ripetendo schemi molto vecchi e tendenzialmente destinati a diventare rapidamente obsoleti, ignorando la dimostrazione scientifica che si è prodotta e in particolare, non ve la faccio molto lunga, con l'affermazione delle teorie della complessità. E qui devo spiegarvi i principi delle teorie della complessità, cosa che vi servirà non solo per la storia, vi servirà anche per la sociologia e per l'etologia. La complessità si basa sostanzialmente su tre concetti connessi tra loro: il concetto di retroazione, detto anche di feedback. Ve ne hanno parlato a sociologia o economia? Sì. Allora, quindi però riassumiamo pure. Il concetto di non linearità del rapporto causa-effetto è il principio, o meglio, il fenomeno di biforcazione catastrofica. Allora, cos'è l'effetto di retroazione? L'effetto di retroazione è quel particolare effetto che si produce modificando un fenomeno di natura ripetitiva. Facciamo un esempio concreto: il termostato dell'aria condizionata. Voi programmate l'impianto di aria condizionata a una determinata temperatura, 18 gradi. Dopodiché il termostato misura la temperatura esterna. Quando la temperatura esterna all'impianto raggiunge 18 gradi, automaticamente la pompa di aria fredda si ferma, si blocca. Quando poi di nuovo la temperatura sale, torna a salire, per esempio nel caldo, torna proviamo a 19 gradi, si rimette in moto la pompa dell'aria fredda che riporterà il clima al valore voluto di 18 gradi. Questo è un esempio di feedback negativo, cioè l'effetto di retroazione, il messaggio che torna indietro, è un messaggio che blocca il processo, che lo ferma. Dice: hai raggiunto una situazione di equilibrio. Ma esiste anche un altro tipo di feedback, ed è l'effetto di retroazione positivo, il feedback positivo. Al di là del nome, per cui sembrerebbe che il primo sia una cosa negativa e il secondo sia un effetto positivo, in realtà è il feedback positivo quello che nella maggior parte dei casi è un effetto devastante. È l'effetto per il quale il segnale di ritorno non blocca il processo ma lo moltiplica. Dobbiamo fare un esempio, magari poco simpatico. Un esempio di feedback positivo dagli effetti essere poco positivi è il tumore, una neoplasia, per il quale l'effetto di retroazione stimola ulteriormente il processo di produzione di cellule che scompensano l'equilibrio dell'organismo. Questo rimetterà in moto un segnale di retroazione che moltiplicherà ulteriormente e magari diffonderà il tumore in altre parti del corpo, fino a quando non ci sarà la morte dell'organismo che ospita il tumore. Questo è un effetto di feedback positivo. Il feedback positivo è una sorta di spirale allargata che moltiplica l'effetto costantemente fino a quando non si verifica quello che vi dicevo, una biforcazione catastrofica. Ma ci torneremo tra un po'. Catastrofico non va preso alla lettera come evento necessariamente negativo, va preso nel senso etimologico, origine greca, catà. Catastrofe è la soluzione di continuità, evento al di là del quale si produce una mutazione, per esempio genetica, per cui una serie di mutazioni avvenute nel tempo molto lentamente in un organismo animale a un certo punto provocano una biforcazione della specie in due nuove specie. Chiaro? Ora, tutto questo si produce a che non è di tipo lineare. Facciamo un esempio ancora. Un rapporto di tipo lineare fra causa ed effetto può essere questo. Voi avete qui un corpo di peso x, avete un vettore di forza y e avete una superficie di scorrimento in cui c'è un coefficiente di attrito che identifichiamo come k. Lo spostamento del corpo sarà direttamente proporzionale al vettore, alla forza del vettore, all'intensità del vettore, inversamente proporzionale al peso del corpo, detratto il coefficiente di attrito. È chiaro? Con questo voi lo potete scrivere con una formula. Se io impiego una forza 10 su un corpo di peso 5 e con un coefficiente di attrito 1, otterrò uno spostamento di 4. Se impiego una forza 20, otterrò uno spostamento di 8. Adesso vi sto facendo un esempio estremamente banale per farvi capire. Abbiamo un rapporto direttamente proporzionale fra i fattori, per cui se il peso raddoppia, proporzionalmente lo spostamento diminuisce, se il vettore raddoppia, proporzionalmente lo spostamento aumenta. Questo è il... Ma non sempre i rapporti causa-effetto sono di natura lineare, sono esprimibili con equazioni di tipo lineare. Voglio farvi un esempio estremamente banale che viene dall'esperienza quotidiana. Avete presente quei rubinetti di doccia molto incrostati in calcare, no? Dove tu stai 10 minuti a girare il rubinetto e il flusso d'acqua è costante, continuano a uscire due gocce d'acqua, possibilmente fredda o tiepida. Poi all'ultimo piccolissimo spostamento di un grado viene giù una valvola d'acqua bollente che spegne l'acqua. Sarà successo anche a voi. Questo è un esempio di rapporto non lineare fra, perché voi prima avete girato il rubinetto per parecchio e questo ha avuto effetti nulli o minimi, poi l'ultimo piccolissimo incremento ha provocato un effetto più che proporzionale. È la famosa teoria del battito d'ali della farfalla nella foresta del Congo che provoca un grifone a New York. La verità è una teoria un po' mitologica, un po' un esempio letterario, ma cosa vuol dire? Vuol dire che quando ci sono più fattori che interagiscono tra loro, questo è il punto su cui dobbiamo mettere e sul quale noi torneremo spesso parlando della globalizzazione, quando ci sono più effetti che si sommano, anzi si moltiplicano fra loro, interagiscono tra loro, uno spostamento anche minimo può produrre effetti molto più che proporzionali alla sua modifica, perché appunto l'effetto non è tanto di somma ma quanto di moltiplicazione reciproca, e quindi lo spostamento d'aria minimo come quello provocato da un battito d'ala di farfalla, però incrociandosi con molti altri fattori ambientali, può moltiplicarsi e produrre un effetto estremamente più violento, sia pure a distanza di tempo e di spazio. Facciamo un esempio più semplice del clima. E guardate, il clima è il regno della complessità in questo senso. Voi sapete che le previsioni del tempo non sono affidabili oltre i 7 giorni, spesso non lo sono neanche nelle 7 ore, però questo è secondario. Si dice che le previsioni al di là dei 7 giorni non ci sono previsioni del tempo, ma ci sono previsioni astrologiche, come se qualcuno avesse interrogati da occhi. Perché? Perché il clima è determinato dalla sommatoria di un numero molto vasto di elementi, di fattori, non facilmente misurabili, ma soprattutto non identificabili nel loro prodursi nel tempo non climatico ma cronologico. Mi spiego meglio. Non è la stessa cosa se le masse di aria fredda provenienti dalla Siberia arrivano all'altezza del Golfo di Botnia un'ora prima o due ore dopo, perché un'ora prima non trovano la corrente del Golfo che modifica meglio il clima delle regioni del nord Europa, e quindi la massa di aria gelida continuerà a marciare verso l'Europa centrale. Se invece succede due ore dopo, si incontra con la massa di aria tiepida, umida, che viene dalla corrente del Golfo, e probabilmente questo provocherà delle precipitazioni atmosferiche nella zona del Golfo di Bosnia, di Botnia, e avrà dopo effetto sulle regioni, diciamo, successive. Ho banalizzato. In realtà non è sempre facile prevedere i tempi entro cui si sposteranno masse di aria calda o fredda, perché c'è per esempio il ruolo del mare in questo senso, perché c'è il ruolo della resistenza dell'aria, perché ci sono molti elementi che possono modificare i tempi imprevedibilmente, in tempi anche molto brevi, mandando a carte 48 un complicatissimo algoritmo che però non prevedeva quell'improvvisa eruzione di aria fredda in quel momento della giornata. E quindi voi capite che non è la stessa cosa se un avvenimento si dà in un determinato momento di tempo piuttosto che un altro. Questo è il principio di casualità. Finora abbiamo parlato del principio di causalità, adesso parliamo del principio di casualità, cioè gli avvenimenti primari in parte sono determinati, gli avvenimenti in generale sono determinati anche da una certa casualità, che rende non sempre prevedibili gli avvenimenti stessi. Veniamo ad alcune facciamo un altro esempio molto spiccio. Guardate, noi abbiamo un cumulo di sassolini di ghiaia e sopra abbiamo un distributore che continua a far cadere un sassolino alla volta a intervalli regolari. Ma se il rapporto fosse lineare, che cosa succederebbe? La catasta, raggiunta una certa altezza e una certa soglia, dovrebbe poi ottenere il rotolamento a valle del singolo sassolino che si aggiunge, e probabilmente sempre sullo stesso lato. In realtà cosa succede? In realtà succede che voi osserverete che a volte il fenomeno della caduta non si verifica. A volte si verifica ed è una piccola frana, cioè cadono 6 o 7 sassolini sul fianco di sinistra, dopo magari nulla, dopo ne cadono 5 sul fianco di destra, dopo continuano ad essere aggiunti, ne cadono 2, sempre questa volta sul fianco di destra, e così via. Cioè non ci sarà alcuna proporzione fra l'aggiunta del singolo pezzo e l'effetto caduta. Perché? Perché anche qui giocano una serie di fattori, la forma dei sassolini, ad esempio, il modo con cui ciascuno di essi è caduto e si è adagiato sugli altri precedenti, l'eventuale presenza di correnti d'aria, le eventuali presenze di scosse sismiche anche intercettibili, tutte cose che possono modificare sensibilmente il fenomeno che stiamo osservando. E qui cominciate a capire una cosa: la differenza fra i concetti di avvenimento. L'avvenimento è la singola piccola frana che si verifica sulla montagna di Sassolini. Poi c'è il processo, la tendenza. È evidente che noi sappiamo che ogni 32 secondi cade un sassolino, per cui noi non sappiamo se al prossimo sassolino ci sarà o meno la piccola frana e di che entità e su quale fianco della piccola montagnola. Però sappiamo che prima o poi succederà. Quindi la tendenza noi riusciamo a individuarla. Il singolo avvenimento no. Cioè noi non sappiamo se esattamente l'avvenimento avverrà oggi o fra cinque sassolini, in questo momento fra cinque sassolini e di che entità sarà. Però sicuramente possiamo dire che il proseguire di questo fenomeno provocherà una serie di cadute. Il fenomeno si colloca a metà fra la tendenza e il singolo avvenimento. Il fenomeno include non solo il singolo avvenimento, ma gli effetti correlati ad esso. Lasciamo per il momento da parte il concetto di struttura. Nella storia gli avvenimenti si producono esattamente con lo stesso meccanismo, che è il meccanismo di cumulo. Cioè, man mano che si accumulano gli effetti, si pongono le premesse per una certa tendenza che a un certo punto produrrà un effetto che può essere quello di una bifurcazione catastrofica. Ad esempio, vedete come la storia non è applicabile, non è applicata solo alla politica, agli eventi militari. Ad esempio la biologia ha una sua storia, e la storia è quella di tanti piccoli mutamenti che avvengono nel tempo, che a un certo punto si cumulano producendo una rottura che dà vita a due diverse specie. È un esempio di come il ripetersi di un fenomeno nel tempo, ecco, l'evento è la singola caduta del sassolino, il fenomeno è la caduta dei sassolini considerati, la tendenza è, a condizione che questo fenomeno prosegua per determinato tempo X, probabilmente questo darà luogo a questo tipo di fenomeni ulteriori. Chiaro? Bene, voi capite come quanti più elementi sono in gioco, quanto più complesso è un fenomeno osservato, tanto più il rapporto sarà non lineare e quindi difficilmente prevedibile. E voi capite che il mondo delle relazioni umane è esattamente uno dei mondi più complessi che possono darsi, dove giocano un'infinità di fattori oggettivi, soggettivi, interni, volontari, non volontari, dichiarati, intenzionali, non intenzionali, erronei, giusti e così via. Tutto questo fa sì che appunto si determini, e comincio a rispondere al vostro collega, materialmente l'ambito spaziale dei gradi di libertà all'interno dei quali si determina l'agire umano. Allora, quello voglio dire, la libertà umana non è infinita. Noi oggi, in questo momento, possiamo anche decidere che siccome fa caldo andiamo sul prato e smettiamo di fare lezione e ci godiamo la soluzione. È una soluzione a portata di mano. Non possiamo decidere quei cannoni che fanno la lezione sul carattere. Perché esistono dei condizionamenti ambientali che ce lo impediscono. Oppure non possiamo decidere che Berlusconi non ci sta simpatico o ci sta simpatico e quindi decidiamo di affadarlo nel lavandino o di eleggerlo Presidente della Repubblica, perché questo non è nel nostro potere, perché noi siamo inseriti all'interno di una struttura. Ecco, cominciamo a parlare del concetto di struttura. Esiste una struttura che è lo Stato italiano, che ha delle sue regole che distribuiscono poteri, distribuiscono facoltà, che impongono limiti, per cui ad esempio far cadere il governo non spetta a noi, non abbiamo questo potere, è il Parlamento che può votare la sfiducia. Eleggere il Presidente della Repubblica non dipende da noi, dipende dal Parlamento. Attenzione, in seduta comune integrato da e solo a condizione che il Presidente precedente abbia finito il mandato oppure sia stato dichiarato inabile o sia morto. Quindi ci sono anche delle modalità entro cui si può agire. Ecco, questo è una serie di esempi che vi dicono come l'agire umano non è astrattamente e teoricamente libero, ma è determinato da una serie di condizionamenti ambientali. Quello stesso soggetto collettivo di cui parlavamo prima e che si forma attraverso il processo identitario cui facevamo cenno rappresenta uno strumento d'azione, ma rappresenta anche un limite alla volontà individuale. Attenzione, quindi, come vedete, esiste una libertà vincolata, però attenzione, non significa che tutto sia rigidamente determinato. Esiste un arco, un ventaglio di possibilità all'interno del quale noi possiamo scegliere. E qui giocano una serie di fattori, ad esempio una scelta potrà essere giusta nel senso che sarà commisurata razionalmente all'effetto che si vuole ottenere. Voi volete superare l'esame, studiarne quindi un numero di ore sufficiente, ci pensate su e venite a fare l'esame con me e lo sciarmi. Questo è un rapporto di tipo razionale, ma voi non siete razionali. Voi studiate 5 minuti prima di venire a fare l'esame con me. E io vi bocio. Quello è il comportamento razionale, hai deciso troppo tardi, una settimana prima, vero? Oppure pensavo di prepararti su un certo libro che fosse adottato e invece ti viene preparato su un libro diverso da quelli previsti e io non l'ho accettato. E ti dico, questa è una piccola cattiveria che io facevo quando ero giù a Rai. E ogni tanto nella volta in cui c'ero gli studenti avevano preso l'abitudine di telefonare, erano vent'anni fa, professore, quando è l'esame. Ora questo mi irritava molto, perché questa idea di stabilire un rapporto telefonico con l'università mi andava molto bene. Una volta mi chiese una tesi per telefono, pensavo di studiare anche per telefono. Allora, per stroncare questa abitudine, decisi di fare una cosa: professore, quando è l'esame? Il 21. Poi veniva il 21, l'esame di diritto pubblico, è mai stato indietro, tecnico. Io ho chiesto, mi hanno detto che veniva il 21, ha chiesto, ha telefonato, ha parlato con una persona non qualificata, ha sbagliato solo cose delicate, deve venire in persona. Dopo un po' di volte hanno smesso di farlo. Ecco, questo è un esempio, adesso voi sarete pensato molto male. Però ricordatevi una cosa, che il docente più bastardo è il docente che si ricorda di quando era studente. E a me sembra che sia stato studente fino ad avanti ieri, ricordatevi. Allora, questo è il caso di un'informazione sbagliata per la quale abbiamo assunto una decisione razionale, ma su un presupposto sbagliato. Completamente sbagliato, perché un bastardo che stava al telefono ti ha detto una data sbagliata per ottenere un certo effetto razionale dal suo punto di vista, cioè che tu la smetta di telefonare e venga la persona. Chiaro? Questo nella medietà, però poi esistono due poli estremi. Facciamo l'esempio di Napoleone, l'esempio del genio individuale che scopre la soluzione, perché nella maggior parte dei casi i nostri comportamenti riprodurranno comportamenti di tipo abituale, cioè grosso modo avremo dei comportamenti standard. È difficile la pensata originale, capita ogni tanto, come dicevo il mio professore, non si può essere intelligente tutti i giorni, per cui nella maggior parte dei casi noi adotteremo soluzioni già sperimentate, già per superare l'esame che è bastato un giacuri che si diverte a fregarci e vabbè tocca studiare un po' di più, che è una cosa banalissima, no? Invece arriva il genio che dice no, ma avete capito niente, non è quella la soluzione, io ho trovato il modo di prendere per i fondelli, cioè di prenderlo per padre e prendere in giro e passare l'esame senza studiare. Non ci provate, però se c'è un genio fra di voi ci può anche provare. Allora è l'esempio di Napoleone. C'è anche però l'effetto opposto, cioè l'errore catastrofico, non l'errore rituale abituale, ma l'errore particolarmente grave e insolito che determina l'effetto. Bene, il comportamento umano si svolge all'interno di questi poli ed è condizionato. Quindi sì, esiste una libertà, ma questa libertà non è infinita, ci sono dei precisi gradi di libertà, c'è un certo numero di, le scelte non sono infinite, sono finite. Se a volte vi avete in tasca una determinata somma, potete acquistare un certo tipo di prodotti entro quel valore. Saranno caramelle piuttosto che un biglietto di cinema, sigarette o quello che vi pare, e però con quella somma che avete in tasca potete comprare una Mercedes. Chiaro? Quindi il nostro comportamento, la nostra libertà è una libertà che prevede dei gradi di libertà. All'interno di questi gradi il nostro comportamento può essere il colpo di genio, che magari è quello che coglie quell'ultimo grado di libertà a cui non avevamo pensato e che improvvisamente allarga il campo del possibile e risolve una situazione di speranza, o può essere un comportamento gravemente sbagliato. Oggi c'è un po' di nervosismo, che sta succedendo? Molto pianello. O può essere un comportamento gravemente sbagliato che coglie invece il grado di cui in realtà quello che ha l'effetto assolutamente meno auspicabile dal punto di vista di pratica. Ecco, il problema è quale equilibrio c'è? Perché detto così in astratto, vabbè, ma quale equilibrio c'è, si può stabilire, fra la libertà individuale e in particolare la struttura che determina il comportamento umano? Un esempio molto interessante per capirlo ci viene proprio dalla linguistica. La linguistica nasce come scienza nell'Ottocento, quando Ferdinand de Saussure capisce che la lingua è una struttura, ha una sua precisa struttura lessicale, grammaticale, sintattica, ha delle sue regole. E quindi in qualche modo inizia a studiare la lingua come insieme organizzato di dati, non casuali. Salvo il fatto che però la lingua nel tempo evolve. Più tardi ci sarà un linguista, Roman Jakobson, che influenzato dalle teorie influenzato dalle teorie fenomenologiche, in particolare del circolo di Jena, del circolo di Praga, intorno a Husserl, cercherà una mediazione fra la libertà assoluta del fenomeno e la struttura, e elaborerà una sua teoria linguistica estremamente interessante, che qualcuno con una specie di ossimoro definirà lo strutturalismo fenomenologico, cioè la cornice strutturale e all'interno di essa i gradi di libertà di comportamento, e lo applicherà in particolare all'esame della poesia russa e diciamo orientale dei primi del Novecento, dei primi 30-40 anni del Novecento. Lo applicherà poi a molte altre cose. È un modello estremamente interessante anche in sede sociologica, anche in sede politologica, anche in sede storica. Ecco, guardate, noi ci troviamo di fronte con la globalizzazione a qualcosa di molto semplice. Noi ci troviamo di fronte a un fenomeno imprevedibilmente complesso, in cui interagiscono un numero infinito di soggetti, di condizionamenti ambientali, di dati imprevisti, che rendono lo studio di questa realtà estremamente arduo, senza applicare i criteri della complessità. Torniamo per un momento al discorso del soggetto collettivo. Bene, c'è uno studio che potrà sembrare estremamente stupido, ma che invece ci rivela cos'è un soggetto collettivo e le regole istintive con cui si regola e si mantiene. Avete mai fatto caso al volo degli stormi, di rondini o di uccelli? Così. Avrete notato come in genere non ha un carattere caotico, perché lo stormo, che di solito ha una certa configurazione, spesso a triangolo, marcia in una certa direzione, poi ha un'evoluzione, magari torna indietro, e tutto lo stormo torna indietro, segue quel movimento e si ricompone nella formazione precedente, originaria. Ci avete fatto caso? Secondo voi, come mai gli uccelli riescono ad avere questo comportamento organizzato, come nemmeno un reggimento di fanteria che sta marciando, oppure l'evoluzione delle frecce tricolori? Bene, allora ci sono stati alcuni etologi, vedete come la complessità si applica nei campi più diversi, come la nostra scienza sta cambiando e sta rompendo la rigida divisione tra scienze umanistiche, scienze naturali, scienze matematiche, eccetera, e quindi inizia ad attraversare campi diversi. Bene, alcuni etologi che hanno munito ciascun animaletto di un piccolo microchip che gli permette, attraverso un computer, di sentire l'evoluzione, e hanno scoperto una cosa, che ogni singolo animale ha nel suo volo come riferimento altri 6 esemplari dello stormo, e si comporta cercando di mantenere una distanza costante dagli altri 6. Ciascuno degli altri 6 a sua volta tiene d'occhio altri 6 esemplari che cerca di mantenere a distanza costante, e così via. Questo crea un reticolo, una sorta di sovrapposizione di tanti esami, che determinano la compattezza e la regolarità del volo del gruppo. Ecco un esempio di come si determina un soggetto collettivo attraverso regole. In questo caso dobbiamo presumere di natura istintiva, non possiamo presumere che ci sia una particolare conferenza tra gli uccelli per decidere, e si immagina che questo avvenga con una certa naturalità. Ecco, quando noi siamo di fronte a un fenomeno estremamente complesso, è ovvio che uno stormo di uccelli è un fenomeno infinitamente meno complesso di tanti altri, molto più piccoli, come per esempio il gruppo di persone che va in un supermercato a fare la spesa. Anche quello, guardate, che risponde a una serie di regole, talvolta dichiarati l'orario, non puoi andarci prima, non puoi andarci dopo un certo orario, devi infilare i guanti per prendere la frutta, insomma, devi uscire passo dalla cassa. Questo è un esempio piuttosto insistito di queste regole. E così via. Ma non solo, queste sono regole dichiarate, poi sono delle regole non dichiarate, istintive, per cui per esempio un certo prodotto sarà preferito a un altro, perché c'è un rapporto qualità-prezzo che viene individuato come maggiore, come migliore, come preferibile. E non è detto che però sia in realtà il miglior rapporto qualità-prezzo, perché magari la signora Maria Casalinga di Voghera ha visto la sera prima della televisione la pubblicità ed è stata influenzata nella sua scelta da questo. Ecco, che potremmo modificare. Vedete come all'interno del comportamento singolo supermercato giochino una serie di fattori di condizionamento esterno, interno, regole formalizzate, regole non formalizzate, eccetera, eccetera. Bene, la globalizzazione da questo punto di vista rappresenta un modello estremamente complesso che noi dobbiamo tentare di comprendere come, è innanzitutto in modo multidisciplinare. Il discorso che vi dicevo prima, ieri, i fenomeni umani non si determinano isolatamente l'uno dall'altro, uno nello spicchio d'arancia economico, l'altro nello spicchio d'arancia politico, quell'altro nello spicchio culturale o sociale e così via. Si determinano insieme e si condizionano. È uno degli effetti della complessità che rende imprevedibile. Ecco, perché lo vedremo? L'applicazione di regole neoliberiste ha dato certi effetti in contesti asiatici, altri effetti in contesti latinoamericani, altri effetti completamente diversi in contesti di tipo africano. Quanto gioca, per esempio, il fattore culturale e ambientale? Quanto giocano i fattori naturali e ambientali? Quanto giocano gli accordi politici e la posizione politica di maggiore forza o debolezza del singolo soggetto che opera, quella stessissima scelta che opera il suo vicino, però il suo vicino è più forte e lui è più debole. Ecco, noi dobbiamo cercare di comprendere tutto questo e di riportarlo all'interno di uno schema logico. Torno al discorso che vi ho fatto, la nostra è una scienza di tipo logico non sperimentale. Noi non possiamo fare l'esperimento di ripetere la globalizzazione, l'ondata neoliberista in Nigeria, magari correggendo uno o due aspetti per vedere se l'esito è diverso, il punto d'arrivo, da quello a cui è effettivamente arrivata la Nigeria oggi. Non lo possiamo fare. Possiamo solo presupporre sulla base di una serie di nessi inferenziali di natura logica. Bene, questo è il quadro concettuale all'interno del quale dovete muovervi. Il tempo passa, è uscita impressionante. Questo è il quadro concettuale, dicevo, all'interno del quale voi dovete muovervi. E io vi ho detto una cosa. L'obiettivo di questo corso non è insegnarvi la storia della globalizzazione. Se dovessi fare questo dovrei avere molto di più delle scarse lezioni a disposizione. Per cui io non proverò a farvi la storia della globalizzazione, vi darò delle indicazioni. Proverò a fare un discorso per temi e problemi, cercando di darvi delle coordinate in qualche modo. L'obiettivo sarà quando voi riuscirete a leggere un articolo di giornale capendolo in modo diverso da quello che accade oggi. Quando voi, di fronte a un determinato avvenimento, sarete in grado di decifrarlo e fare delle previsioni. Quando voi sarete in grado di utilizzare indifferentemente il telescopio o il microscopio delle relazioni sociali, capendo quando va usato uno e quando va usato l'altro. Fuori metafora. Quando la vostra attenzione si punterà sul micro fino al fenomeno o su fenomeni macro di ampia portata. L'obiettivo del corso è questo, non è che voi veniate a dirmi con grande esattezza tutta la cronologia della storia dei processi di globalizzazione. Non vi sentirete fare queste domande. Ragione per cui la regola delle 19 domande standard, purtroppo, purtroppo per voi è questo esame molto difficile. Adesso cerchiamo di venire un momento intanto al primo problema. Io lo sento ieri. Definire l'oggetto della propria ricerca e l'ambito temporale è il primo atto di una ricerca storica. Beh, tu stai studiando la globalizzazione, cos'è? Che cosa intendi per globalizzazione? Quando è iniziata? Da quando? Beh, finita no, è ancora in corso, ma almeno da quando? Bene, facciamo un esempio, lei. E sì, siamo da... Faccia conto che io sono la sua vecchia nonna che vive in paese e che lei chiede, nipote mio, ti sei iscritto all'università? Dove ti sei iscritto? Che fai? Io sono al corso di laurea di globalizzazione. E la povera vecchietta dice, che cos'è la globalizzazione? E la povera vecchietta è abituata all'idea che c'è un nipote che fa il medico. Avvocato, ingegnere, lei che cosa fa? Lobby, fa? Che fa? Allora, provi a spiegare a me che cosa farà da grande. Vabbè, mi sono occupato, sì, lo so, però tra il call center lo so, ma almeno facciamo la cosa. E cosa si occupa? Io faccio la pastiera invece. Finirà nel febbraio del 2020. Stiamo parlando di soldi. Ma va neanche bene. Io andrò a lanciare la pastiera. E due pulsanti. Perché non fai la sedia umana? XY. Va bene. Sto cercando. E io però studiare questi fenomeni. E il mio compito è quello di fare certe cose, prendere certe decisioni. Lei cosa studia? Cosa farà? Beh, ma cosa studia nell'aspettativa di quale lavoro? Tenga conto che sua nonna, poverina, che con la sua piccola pensione contribuisce a pagare le tasse universitarie. Come detto, voglio sapere dove sta buttando questi soldi. Cioè, il nipote, fra qualche anno, cosa farà? Porterà pizza a domicilio? Cioè, non vuole sapere. Allora, cosa farà? No, ma fino al suo posto le faccio anche a voi. Lei che è un volontario, mi dica. Questo pezzo. Allora, poniamo, andrà a lavorare alla FAO. Con la funzione, per la FAO si occupa della alimentazione del mondo. Il suo ruolo sarà quello di morto di fame, probabilmente, che non le darà uno stipendio, una cosa. Allora, e va bene, e chi è? Che significa? Questo è così. sei iscritto all'epoca a questa pubblicità globalizzazione, sei iscritto a economia e commercio. Cosa studiate di diverso? Quindi il problema sono le comunicazioni, lo sviluppo della comunicazione, questo è il concetto. Noi ci occupiamo delle comunicazioni, questo? No. Questi parenti non studiate. sì, non è una cosa un po' pratica. Io avevo un negozio di fotografia, non lo so, vedi tu che vuoi fare. C'è un parcone sotto casa. Allora. E ti fai un spazzino che c'ho fortuna, cioè. Ho notato una cosa. Ho fumato qualcosa. Sono spiegazioni estremamente fumose. Mi darete atto. Fumose. Che non è che si è capito bene. Passi che non si capisca che cosa avrebbe da grande, perché di tutti voi la risposta più esatta me l'ha data il penultimo, quello che stava in fondo, che ha detto non lo so. Cioè, la risposta esatta, lei ha già superato la prima domanda dell'esame. Però detto questo, cioè, ma perché vi siete scritti una cosa che si chiama globalizzazione? Va bene che faccia il assolutamente. Tu vai in un salotto, dici che cosa fa questo. Globalizzazione, chi sto saggio, fa figo proprio, cioè proprio però la verità è che c'entra a cadere l'accento sull'aspetto economico, unificazione dei mercati. Non c'è dubbio, se noi andassimo a vedere un dizionario della lingua italiana, meglio ancora un dizionario di quelli curati dall'ordine dei giornalisti, che più o meno danno il significato delle parole nel senso usuale usato sui giornali. Consultatevi ogni tanto, perché spesso all'ANSA o all'ordine dei giornalisti sono condizionali, fanno periodicamente, ed è estremamente interessante perché quello che dice non il significato delle parole, ma le convenzioni che si vanno formando. Per cui che vi occupate di scienze sociali si immagina, e può essere molto interessante. Guardate che il linguaggio poi definisce l'oggetto. Allora, la interpretazione più diffusa del processo di globalizzazione è l'internazionalizzazione dell'economia attraverso il libero scambio di merci e di spostamento di capitali. Non solo per questa idea. La globalizzazione è il fatto che in pochissimo tempo io posso spostare una certa massa di capitali da Melbourne a Buenos Aires, stando io a Roma, con un semplice spostamento di mouse sul mio tavolo. Va bene? Perché ho dei conti, delle cose, eccetera, quindi con un'operazione via internet io sposto dei capitali che stanno fermissimi, perché in realtà è solo un fatto di danni questo spostamento. Merci è un fenomeno un po' più complicato. Però giustamente c'è qualcuno che ha osservato, il vostro collega, sì, però il fatto dello scambio delle merci ha anche prodotto un'internazionalizzazione della cultura. Cioè in qualche modo è interessante l'espressione usata, una semplificazione. Attenzione, perché non è, guardate come le parole non sono vocali, qualcuno avrebbe potuto dire invece che l'intensificarsi degli scambi produce un arricchimento, una moltiplicazione di opzioni culturali, e invece ha indicato il processo come, al contrario, semplificazione, non moltiplicazione di modelli. Ed è interessante questo. E quindi, per esempio, la globalizzazione cos'è? È lo sviluppo delle telecomunicazioni che consente di accelerare. Essenzialmente si tratta di due fenomeni, al di là di quello economico, che hanno consentito lo spostamento di persone, di beni, di comunicazioni molto rapidamente. I trasporti, che sono cresciuti enormemente di potenza e velocità, e le telecomunicazioni, che ormai coprono l'intera sfera del mondo, appunto la globalizzazione. Globalizzazione proprio perché, ecco, cominciate a ragionare su una cosa, le parole spesso hanno un loro doppio significato, hanno più di un significato, è la cosiddetta ambiguità semantica. la stessa parola può avere più significati, il che da un lato depone sulla ricchezza della lingua e dice anche della storia, però dall'altro avverte anche sul fatto che noi possiamo usare le stesse parole però pensando a cose completamente diverse. Questo può essere fonte di equivoci. Bene, allora, globalizzazione, noi la utilizziamo soprattutto con riferimento a un'immagine, il mondo è un globo, è una sfera. Quindi globalizzazione, nel senso, gli scambi internazionali oggi siamo fenomeni. Velocità, uno arriva in cena, sono un fenomeno. Le comunicazioni che avvolgono siamo dei fenomeni. Siamo, mi dispiace sopprimerlo più tardi. Sì. Se vuoi ti do anche una mano. Grazie. È un casino. Io volevo far star zitto a te. Allora, tutto questo ha prodotto una serie di fenomeni. Certo gli scambi culturali, ma per esempio la televisione, quindi lo scambio delle telecomunicazioni, ha incoraggiato, ha fatto sorgere il desiderio in masse molto consistenti di uomini di cercare una migliore sorte, una migliore fortuna in ambiti territoriali molto distanti da loro. E il fatto che ci siano dei mezzi di trasporto che rendano oggi pensabili gli altri pensabili, solo 30 anni fa, 40 anni fa, ottiene come effetto un fenomeno di migrazione di massa come mai era successo nella storia dell'umanità. Le grandi migrazioni sono uno degli aspetti della globalizzazione, non meno che lo spostamento di capitali o di merci. Ma la cosa interessante è che i trattati internazionali auspicano la più completa libertà di spostamento di capitali e di merci, ma non di uomini. Quello avviene nei fatti e spesso in forme illegali. Però non è una cosa particolarmente complicata, perché già vi fa capire che c'è qualcosa che non vale la globalizzazione dal punto di vista concettuale, perché si capisce perché la libertà riservata, lo spostamento riservato a merci e capitali non riguarda gli esseri umani, o perlomeno non nella stessa misura. Anche questo crea parte. In qualche modo lo sviluppo della tecnologia delle telecomunicazioni e dei trasporti ha riguardato anche massicci spostamenti turistici, come Danilo successo prima, e questo certamente, a ragione del nostro collega, ha contribuito a quello scambio di culture, a quella sorta di merciato culturale a cui ci siamo. Ma esiste anche un altro aspetto della globalizzazione di cui non mi avete parlato, che è l'aspetto politico. La ricerca costante di una governance mondiale, il tentativo di superare la sovranità dello Stato nazionale e di superare la dimensione dell'ordine westfalico, dell'ordine. Sapete cos'è l'ordine westfalico? Allora, l'ordine westfalico è quello che succede alla guerra dei 30 anni, 1618-1648, che culmina con la pace di Vestfalia. Pace di Vestfalia che sostanzialmente si risolve nel riconoscimento della sovranità esclusiva all'interno dei confini del singolo sovrano. Quindi il principio della sovranità nazionale è la dissoluzione dell'impero, è la dissoluzione dei grandi ordinamenti sovranazionali, l'impero o la Chiesa, per sua natura mondiale, dove il mondo era l'Europa naturalmente, stiamo parlando di un mondo in cui ancora il mondo è sostanzialmente l'Europa e un po' di sconfinamenti coloniali nei paesi extraeuropei. E oggi si assiste a un ritorno indietro, cioè il tentativo di superare lo Stato nazionale dell'ordine westfalico e invece reintrodurre meccanismi di sovranità sovranazionale. La ricerca di una governance sovranazionale. Obama, che qualche giorno fa ha prodotto il suo giornale, dice all'ONU: beh, non c'è, signori concertiamo un sistema per evitare che Al Qaeda abbia una bomba atomica. No? Sì, apparentemente è un principio di governance che supera e trascende lo Stato nazionale. Però vi rendete conto della contraddizione che c'è all'interno di questa notizia? Vediamo chi di voi riesce a individuare qual è la contraddizione. Forse che è il leader di uno Stato e questo è già un aspetto. Lei sta dicendo che in fondo la proposta parte dal leader di uno Stato nazionale che si rivolge ad altri capi di Stato nazionale, quindi ormai il soggetto Stato nazionale non è finito. Sì, ma c'è una contraddizione ancora più sottile che richiede un po' più di agilità, un guizzo in più da parte vostra. Che forse Al Qaeda e gli Stati Uniti sono due entità differenti, cioè se si stai avvicinando uno Stato è uno Stato che non combatte un altro Stato ma che combatte un'organizzazione. Fermo. È arrivato al punto, però attenzione, bisogna precisare. Fumosamente l'ha presa la questione, adesso dobbiamo mettere a fuoco la fotografia. Gli Stati Uniti sono uno Stato nazionale. Al Qaeda cos'è? Al-Qaeda è una rete internazionale di terroristi. È un soggetto di natura non statale, però è un soggetto politico. E perché non è un soggetto di natura statale? Cosa ti manca per essere un soggetto statale? Beh, non concordo del territorio. Accettato. Il punto è questo. Io posso anche accettare, oddio, non si accetta manco quello perché per esempio l'Iran è per la Corea per spaccare lo stesso. Io posso anche accettare l'idea che uno Stato nazionale si dia una però uno Stato nazionale è anche un territorio, quindi in qualche modo è anche esposto alla sabbia. Quindi posso anche sopportare l'idea che uno Stato nazionale abbia una bomba atomica, perché in fondo posso anche reagire. Perché Al Qaeda è un pericolo maggiore degli altri? Perché non ha uno Stato, non è visibile. Io con chi me la prendo se questi mi fanno un attentato nucleare? Ecco perché Al Qaeda è un nemico che incute più timore. Perché se Al Qaeda, cioè un organismo che non è uno Stato nazionale, non ha un territorio, non ha una sovranità che è esercitata sul territorio, ha la bomba nucleare e quindi può compiere attentati del genere, questo manda a catafascio qualsiasi ordine internazionale. Ma allora il vecchio principio di Stato nazionale non è poi così vetusto e superato, perché io comunque ho bisogno di ragionare con un soggetto che coglie i principi di sovranità e di territorialità, che abbia un popolo collocato nella che abbia un popolo collocato in un ambito spaziale preciso su quale io posso esercitare una governanza. Allora, ed è governanza internazionale, sì, ma lo Stato nazionale non è proprio questa cosa così finita, così superata, così vecchia, come si dice. E qui già cominciate a capire una cosa, ragazzi, cominciate a capire che la globalizzazione non è un processo vecchio. Non è un processo cominciate a capire una cosa, ragazzi, cominciate a capire che globalizzazione ha due significati. Se voi leggete il vocabolario, alla parola globale corrispondono due significati, anzi tre. Uno letterale, che è del globo, è di un oggetto a forma globo, di sfera. Poi ci sono due concetti derivati di ordine simbolico. Uno è l'equivalente di mondiale. Siccome il mondo è a forma di globo, per dire mondiale diciamo globale, e quindi il mercato globale è il mercato mondiale. Quindi noi potremmo dire anche globalizzazione uguale mondializzazione. Però globale ha anche un altro significato. Globale, il globo, è una figura dei soldi tridimensionale, quindi implica un'idea di un fenomeno che ha contemporaneamente più aspetti, esattamente come il solido ha un'altezza, una larghezza e una profondità, cioè a tre dimensioni. I problemi possono avere una loro natura globale in quanto hanno più dimensioni, per esempio politica, sociale, economica, culturale. E infatti voi, sia pure un po' faticosamente, vi siete sbrogliati fra sì, è un fatto economico, ma c'è anche delle ricadute culturali e queste sociali, però anche, e così via, le telecomunicazioni, i trasporti, cioè più o meno avete iniziato a metterci più. L'unica dimensione che vi ha mancato è quella politica, però quindi globale è anche l'impossibilità ormai di pensare i problemi come problemi specifici, specialistici. I problemi ci si presentano nella globalizzazione come globali. È chiaro? Solo se tenete presente questa ambiguità semantica capirete come spesso nel linguaggio si determinano degli equivoci che suggeriscono un'idea piuttosto che un'altra e dialoghi fra sordi, per cui uno intende, uno dice dal mercato e l'altro risponde con la crescita. Apparentemente però non sono le stesse cose. Bene, come è nelle abitudini di questa cattedra, adesso dedichiamo qualche minuto alla discussione. Abbiamo ancora un quarto d'ora a disposizione. Come? Una cosa che riguarda la lezione di ieri, che mi è venuta in mente. io volevo chiedere sui, riguardo ai principi delle teorie sulla complessità, esattamente, cioè non ho ben capito cosa sia la biforcazione catastrofica. Sono Mengo, io volevo chiedere una cosa, che ho trovato un interessante articolo di Giovanni Sartori sul Corriere di ieri, dove parla anche lui di federalismo e di, invece di processi globali, e parla di insomma che il federalismo porterebbe a andare a spezzettare un paese già troppo spezzettato. A me è venuto in mente in parte quello che ha detto quando ho parlato del linguaggio giornalistico, e in parte quello che appunto adesso dei processi globali, che vengono visti come problemi globali e non specialistici. Io volevo chiedere sotto questo punto di vista se invece non c'è stata una non è forse più corretto considerare più aspetti amministrativi, diciamo, sotto questo punto, piuttosto che solo, cioè, fargli un minestrone enorme di tutte le cose, senza ovviamente mettere in da parte quelli che poi sono i processi globali. Thank you. scoprendo le cose. Comunque qui non ci sono tutti i giovani, giuro, puoi parlare italiano.